Città Fujiko Live Club. In studio Nevio Bencivelli. Ciao a tutti, Nevio al microfono, siamo a mercoledì 10 settembre 2025 e siete all'ascolto di Radio Città Fujiko 103.1 MHz in modulazione di frequenza stereofonica da Via Zanardi in Bologna. E naturalmente potete ascoltarci, anzi meglio per coloro che abitano lontano, ascoltarci tramite il web con l'apposita app che potete gratuitamente scaricare dal nostro sito radiocittafujiko.it. E negli ultimi tempi anche nelle province limitrofe tramite il sistema DAB, che è un sistema che però necessita di un apparecchio radio apposito, per cui è ancora in divenire. Città Fujiko Live Club è la trasmissione che ogni mercoledì mattina si occupa di farvi ascoltare musica registrata dal vivo di tutte le epoche e di quasi tutti i generi. Come sempre anche oggi Città Fujiko Live Club inizia con una novità da parte di un gruppo abbastanza sconosciuto dalle nostre parti, anche negli Stati Uniti non è che siano famosissimi, ma che hanno uno zoccolo duro che li segue fedelmente nel corso della loro carriera che è iniziata nel 2005. Ed Jordi, Gordy Quist e Colin Brooks sono tre singer-songwriter, cantautori, diremmo noi in italiano, ma è un termine che non mi piace molto. Si esibivano al Momos in Austin, Texas, che è la loro città di provenienza, in solitaria durante le serate in cui c'era il cosiddetto open mic, serate in cui viene messo il microfono a disposizione di chiunque voglia cantare o suonare. Loro erano tre solisti, ma nel 2005, come vi dicevo, si sono messi insieme, hanno formato una band, loro sono tre cantanti chitarristi, hanno preso naturalmente una sezione ritmica più un tastierista e si sono autodenominati Band of Heathens. Sono tre solisti, talmente solisti che alla fine Colin Brooks nel 2011 ha deciso di abbandonare la compagnia per mettersi in proprio. Non so se abbia fatto bene, ma questo è un altro discorso. Hanno fatto un sacco di album live, veramente, ed è una delle mie band preferite forse per quello. L'ultimo di questi è quello che vi propongo oggi come novità, si chiama Live the Rock Palace 2009 ed è stato registrato al Crossroads Festival a Bonn in un locale che si chiama Harmony, e non so se l'ho detto bene, anzi forse è Harmonie in tedesco, ma vediamo. In Germania naturalmente l'8 novembre del 2009, quindi non è nuovissimo, però è stato pubblicato nel giugno di quest'anno. Ci andiamo ad ascoltare, sono la tipica, chiamiamolo così, band americana, Band of Athens. Il brano che ho scelto per voi si chiama Hey Rider. Hey, rider. down your arm. Si chiamano Band of Heathens, come vi dicevano vengono da Austin, Texas, hanno fatto molte cose registrate dal vivo, questa è l'ultima in ordine di tempo, è una registrazione del 2009 ma è uscita solamente giugno di quest'anno, si chiama Live at Rock Palace 2009, scusate il mio pessimo inglese come al solito. E forse avrete capito che questo pezzo si chiamava Hey Rider. Il titolo dell'album la dice lunga, Live at Rock Palace. Rock Palace, ne ho già parlato diverse volte, ma non mi stancherò mai di dire, è il tipo di trasmissione che è mancata in Italia per proporre una cultura rock agli italiani di ogni genere, visto che questo show televisivo è iniziato nel 1964 tramite una televisione che si chiama WDR e da allora trasmette praticamente ogni settimana concerti di gruppi e artisti che sono in giro per la Germania. Dicevo, è quello che è mancato all'Italia, perché sì, noi avevamo Sanremo, che abbiamo purtroppo Sanremo, che è tutta un'altra storia e siamo alla frutta come musicalmente parlando in termini di rock. Ma Rock Palace invece ha formato una serie di fans tedeschi, ma non solo tedeschi, che portano avanti il discorso della musica rock e non solo rock. Il Rock Palace è come dicevo, la messa in onda, televisivamente parlando, degli show che i vari gruppi, i vari artisti fanno soprattutto in Germania, in città diverse, non c'è una città di riferimento, ma sicuramente insieme al fatto che in Germania ci sono un sacco di basi militari americane, ma anche qua in Italia non scherziamo. Si è formata appunto questa cultura, chiamiamola rock, che in Italia manca assolutamente, dico a grandi numeri. E solitamente per parecchi di questi concerti sono stati pubblicati quasi tutti appunto si chiamano Live at Rock Palace e sono di solito un CD o due più un DVD, quindi c'è appunto anche la vera e propria trasmissione televisiva. Avrete già capito che a questo punto ci andiamo ad ascoltare una serie di brani registrati nel corso di questa benemerita trasmissione nel passare degli anni. Iniziamo da una registrazione del 1978, anche se in realtà in questo cofanetto che è un doppio CD più DVD, che si chiama Live at Rock Palace 1978 e 1981, cioè 1978-1981, come dicevo, i due dischetti sono deputati ai due anni, da parte di una band americana che, malgrado sia associata con l'ambiente del CBGB's punk di New York, in realtà si sono formati a San Francisco, ma come hanno fatto molti americani poi sono spostati. La band si chiamava Mink DeVille. Naturalmente avrete già capito che Willie DeVille era il leader, e poi c'è un'altra pubblicazione solamente per Willie DeVille, ma è posteriori, quando lui ha iniziato la carriera solista. E il tutto è stato registrato negli studi della TV in questione, WDR, che è sito a Colonia, il 16 giugno del 1978. Un classico della produzione di Mink DeVille e in seguito anche di Willie, si chiama semplicemente Spanish Troll. This is entitled Spanish Troll. Such a lady killer. Think you're so slick. The man is crazy and the clothes. Ain't no doubt about it. And then you send it out. Send it out. Oh, Sita. Chiqui, chiqui. ¿Por qué me haces así, ah? Mi televisión es aquí en mi casa. No me así, tú sabes que te quiero, pero si te Right. Thank you. And we can't get no worse now. Talk to me until the night is over. That's all I want. That's all I have. Talk to me. till the night is over. Sometime soon, talk to me, darling, until the night is over. Till the night is over, yeah. Talk to me until the night is over. Yeah. Till the night is over, come on, baby, talk to me. Till the night is over, talk to me, yeah. Till the night is over, that's all I want, darling. Talk to me sometime. Until the night is over. Till the night is over, baby. Talk to me, yeah. Until the night is over. E questo è un mega cofanetto, 3 CD più 2 DVD, racchiude 2 concerti effettuati a Rock Palace naturalmente nel 1979 e nel 1992 da parte di Southside Johnny and the Asbury Jukes, grande band proveniente dal New Jersey, attiva dal 1975 ma ultimamente è in dismissione. Infatti Southside Johnny, che è il cantante e nonché leader, ha comunicato il proprio ritiro dalle scene musicali, anche se poi in realtà ogni tanto qualche concertino in giro per il New Jersey lo fa. C'è da dire che l'ultima volta che l'ho visto, in quel di Ferrara un paio di estati fa, non era proprio al massimo della sua vivacità, diciamo, della sua potenza. E questo mega cofanetto, come vi dicevo, Live at Rock Palace 1979 and 1992, è stato registrato alla Music Hall di Colonia, e in questo caso ho scelto il concerto del 1992. Dicevo Music Hall di Colonia il 26 marzo di quell'anno, il tutto da Southside Johnny and Asbury Jukes. Everybody's down the madhouse. Put me on the job just to earn a few bucks. You know I really needed the dough. Well, I spoke to the man and he shook my hand. He said, "Some will let you know." Hey, Roger, now say hello. Oh, well, I fold, I'd scold until I could not afford. I said, take her to the picture show. Everybody knows. La fantastica voce di Roger Chapman insieme ai suoi shortlist, il vecchio Chappo, così lo chiamiamo noi fans, è iniziato la propria carriera nel 1966, dico 66 del secolo scorso, insieme ai Family, e che si sono sciolti poi nel 1973. Da quel momento ci sono stati alcuni gruppi fittizi, Chapman Whitney oppure Streetwalkers, ma poi è iniziato nel 1975 la propria carriera solista con un album che si chiamava Downtown Fires, e spesso è accompagnato appunto dagli shortlist, come in questo caso Rock Palace. Si tratta di due CD più DVD in questo caso, registrati al Markthalle di Amburgo il 9 novembre del 1979. Pare che si sia ritirato, non faccio fatica a crederci, perché l'ho visto qualche anno fa in quel di Londra e già tentennava, diciamo così. Però sicuramente è un grande, grande artista e un grande, grande personaggio della musica di tutti i tempi. Shortlist, il brano che ci siamo ascoltati. E per la serie non c'è due senza tre, dopo due grandi cantanti arriva il terzo. Molti di voi conosceranno, spero, almeno Paul Rogers. Anche lui ha avuto una carriera, non so, da quando, dagli anni 70, anzi dagli anni 60, fine anni 60, perché lui è partito con i Free, poi è passato attraverso la Bad Company, poi attraverso i Firm, una band che è durata un attimo insieme a Jimmy Page, poi si è unito ai Queen per un episodio della sua carriera che non è stato proprio felicissimo, si chiamavano Queen and Paul Rogers, hanno fatto anche un album live, e poi in tutto intramezzato dai propri album solisti che sono iniziati nel 1983. Quello che ci andiamo ad ascoltare adesso è forse l'ultimo album, l'unico album che non si chiama Live at Rock Palace, di quelli che vi faccio ascoltare oggi. Infatti si chiama The Lorelei Tapes. Come dicevo, la trasmissione Rock Palace è itinerante, va in diverse location, ma spesso e volentieri le telecamere della WDR si recano a Lorelei, questo magnifico sperone roccioso sul Reno, dove si tengono concerti durante l'estate, sempre di altissima qualità. Qui arriva Paul Rogers con una registrazione dell'8 luglio del 1995. Non vi dico neanche cos'è, tanto lo saprete. She said, love, love above. È innegabile che gli U2 all'inizio della carriera fossero veramente una forza della natura, grandissimi veramente. Questo è il primo singolo che pubblicarono, il secondo, il primo era Boy and Girl, ma si chiama Will Follow naturalmente, il tutto registrato a Lorelei, anche in questo caso fa parte del loro primo album live, a dire il vero viene accreditato come album live, ma il minutaggio è veramente molto molto molto scarso, arriva sì e no a mezz'ora. Comunque si chiama Under a Blood Red Sky ed è fantastico veramente, è stato registrato in diverse location fra cui anche Red Rocks, e questo invece era Lorelei con questo brano che certamente che spero conosciate, che si chiama appunto I Will Follow. Era il 20 agosto del 1983. I know he does all that he can. Andiamo a concludere con una grande band sconosciuta, si è vista anche qua in Italia parecchio nel circuito blues, si chiamano Nine Below Zero, vengono da sud di Londra e sono stati attivi in due tranche dal 77, secolo scorso, sempre al 1983 e dal 1990 fino ad oggi. Nine Below Zero, fra parentesi, è una il nome è tratto da una canzone di Sonny Boy Williamson II, un grande bluesman. Loro hanno fatto diversi album live, incluso anche il loro album d'esordio per una band, non è normale questo, ma loro non sono normali. L'album si chiamava Live the Marquee e ve lo consiglio caldamente. Qui invece siamo al Live the Rock Palace 1981-1996 e ho scelto per voi la versione 1981. Siamo di nuovo a Lorelei, andiamo a concludere questa carrellata di brani registrati a Rock Palace, appunto in questa location fenomenale, e ce ne sarebbero ancora tantissime, sarà sicuramente un'altra occasione per farveli ascoltare. Andiamo con questi Nine Below Zero, il tutto è stato appunto registrato a Lorelei e il pezzo si chiama Sugar Mama. Sugar Mama! Sugar Mama, where in the world did you get your sugar from? Yeah, I said, tell me, Sugar Mama, where in the world, where in the world did you get your sugar from? Was it back in Philadelphia? Yeah, back where you came from? I hear some blues downstairs. straight in the morning. I like my tea at night. I like my coffee real sweet in the morning. Yeah. I like my tea at night. I get my coffee sweet, babe. You me. We're gonna work out right. Shrug off the rain. I'm scattered on the interstate. I just call out your name. Telephone line, get me down. I've been so out of touch. I left my phone there back in town. My mortgage due, pay back my loan. Pay it by the U.S. mail. 1,000 miles from home. So wild and free, right here with me. Well, I pulled myself right out of bed. Well, it's another Roach Motel. Don't touch the bedspread. That's what you say when you come along. But now I'm looking for a laundromat in a town I don't belong. Another dram and a drop of tears. Let's drag the Colorado up and back for all these years where you should be. So wild and free, right here with me. Right here with me. Right here with me. Out here on the fringe. So wild and free, just hanging by. Dress the towel, them ties are bound. Well, they hold it in double now. Sometimes they get so tired, it's been so long since I've been gone. Seconda parte di Città Fujiko Live Club, siamo al 10 di settembre del 2025, scusate. E abbiamo iniziato la seconda parte come sempre con la novità che vi propongo quest'oggi, band che si chiama Band of Heathens, un gioco di parole che mi è scappato, scusate. E Live Rock Palace, l'album che vi propongo oggi come come novità, anche se è stato registrato nel 2009, ma è uscito nel giugno scorso. Il brano che ci siamo ascoltati si chiama Somebody Tell the Truth. E questa band, come vi ho detto nella prima parte in sede di presentazione, era stata fondata da tre cantautori, diciamo così, anche se a me non piace molto, ma erano tre cantautori che si unirono, poi uno se n'è andato, sono rimasto in due, ma la band continua a tutt'oggi. Questo, a mia conoscenza, è l'ultima uscita per quel che riguarda la serie Rock Palast. Speriamo che ce ne siano presto altre, perché sono sempre di alta, alta qualità. Don't take on my bone. Come sempre però nella seconda parte di Città Fujiko Live Club arriva Recorded Today, i brani che sono stati registrati nel corso della giornata odierna, nel trascorrere degli anni, e ancora una volta tantissime cose concentrate però questa volta in 5 decadi. Non so se eravate all'ascolto la scorsa settimana, erano 7 decadi, perché il criterio di scelta è un brano per ogni decade. Oggi dovrei fare in tempo a farvi ascoltare tutto per benino. Andiamo subito a iniziare dal 1977. Siamo insieme a una grande band che è stata fondata nel 1970 da Joe Zawinul, tastierista eccelso, e Wayne Shorter, sassofonista altrettanto eccelso. Entrambi sono stati alla corte di Miles Davis per diverso tempo. Sono sciolti definitivamente nel 1986. Nel frattempo attorno a questi due, a questa coppia, è ruotata una serie di musicisti impressionanti, tutti molto molto molto bravi. E l'album che ho tra le mani si chiama Live and Released, è un doppio CD ed è uno dei diversi album live usciti postumi dopo lo scioglimento della band. È stato registrato in diverse occasioni e naturalmente in diverse epoche. Qui siamo nel 1977, all'interno della formazione al basso abbiamo quel fenomeno straordinario che fu Jaco Pastorius, e infatti questo brano che ci andiamo ad ascoltare, che è stato registrato al Rainbow di Londra il 10 settembre del 1977, è stato scritto proprio da lui e si sente. Si chiama Tin Town Weather Report. We'll be right back. Spero che il vostro apparecchio, radio, PC o quel che sia, telefono, quel che abbia dato il giusto risalto al basso in questo brano. Una cosa fantastica da parte di Jacopo Astorius, che è colui che ha scritto questa Tin Town, Loreno Weather Report, Rainbow di Londra, un locale che ha fatto la storia della musica non solo della città londinese, della città britannica, ma di tutta la storia musicale. Era il 10 settembre 1977. Questo splendido brano contenuto in un altrettanto splendido doppio album che si chiama Live and Unreleased. Nella prima parte della trasmissione ci siamo ascoltati tre super cantanti, adesso andiamo ad ascoltarci invece i primi vagiti, diciamo così, fra virgolette, di un cantante che secondo me non vale i tre che vi ho fatto ascoltare in precedenza, ma che invece ha avuto molto molto più successo degli altri tre messi insieme, forse a parte Paul Rogers. Lui si chiama Paul, anche lui, ma Young di cognome. Ha iniziato la propria carriera con una band che si chiamava Q-Tips. Sono stati insieme solamente 3 anni, dal 1979 al 1982, con 3 album dal vivo, e poi Paul Young è andato per la propria carriera solista, molto fortunata. BBC Radio 1 Live in Concert è la serie che ci andiamo ad ascoltare. Se in Germania c'era la televisione che trasmetteva Rock Palast, in Gran Bretagna la radio invece trasmetteva questo BBC Radio, Radio 1 Live in Concert almeno una volta alla settimana. Il CD di questa serie per i Q-Tips è stato pubblicato postumo nel 1991, ma è stato registrato al Paris Theatre di Londra il 10 settembre del 1980. Il pezzo che ho scelto per voi si chiama Stay at Home Girls, state a casa ragazze, non so in che senso. Loro sono Q-Tips featuring Paul Young. This next number is called Please Don't Stay at Home. What say we'll do together? But when I dress up, you dress down. Let's go out and play the town. Then you'd rather we stay home alone. I'm gonna try and get you out. So stay at home, girl. Stays open till 8 a.m. I want to talk your time. Please don't stay at home, girl. We'll be right back. Big band con tanto di fiati, questi Q-Tips che diedero il via alla carriera di Paul Young, come dicevo, poi dopo qualche album, dopo tre anni solamente, dire il vero, insieme Paul Young se ne andò per la propria carriera solista. Stay at Home Girls, il brano che ci siamo ascoltati, è stato registrato il 10 settembre del 1980. Bauhaus sono una grande band, sono tuttora, perché dopo innumerevoli scioglimenti e ricongiungimenti sono ancora insieme dopo l'esordio del 78. Il loro primo singolo, Bela Lugosi's Dead, è un autentico capolavoro, ma dura una decina di minuti e non ho più tempo per farvelo ascoltare, anche perché al mattino non è proprio indicato. Comunque hanno fatto molti album dal vivo, questo si chiama Gotham perché è stato registrato a New York City, gli amanti di Batman sanno di cosa si tratta, e al Hammersmith Ballroom il 10 settembre del 1998. Scelto un brano molto molto dolce e inusuale, direi, per i Bauhaus, si chiama Hollow Hills.

una lunga malattia, si suol dire, insomma aveva un tumore, e però lui non si perse d'animo, andò in giro, fece ancora concerti, fece addirittura un'apparizione al Letterman Show, dove quando David Letterman gli chiese che cosa consigliava a coloro come lui, malati di tumore, lui disse la frase famosissima: enjoy any sandwich, cioè godetevi tutti i sandwich che mangiate, insomma, una cosa che solo uno che aveva una un'ironia come lui poteva dire. E Enjoy Every Sandwich è un album che è stato assemblato dal figlio Jordan Zevon insieme agli amici di suo padre, cioè Don Henley degli Eagles, Steve Earle, Jackson Browne, Bonnie Raitt, Bob Dylan e Bruce Springsteen, appunto, che per l'occasione ha regalato a Jordan, il figlio, appunto, questo brano che si chiama My Rise Here, registrato insieme alla E Street Band allo Sky Dome di Toronto in Canada il 10 settembre 2003, due giorni dopo la morte di Warren Zevon. I'm hiding in Honduras. I am a desperate man. Ecco un altro brano molto famoso, ma andiamo a concludere questa Record Today di oggi. Siamo nel 2011 e ci trasferiamo all'isola di Wight per un festival che si chiama Bestival, non so perché, ad essere sincero, e di scena abbiamo i Cure, una grande band, credo che e spero non abbia bisogno di introduzioni, se non dire che è attiva dal 1976, quindi il prossimo anno sarà una festa grande. Hanno fatto parecchi album live, questo, se ricordo bene, no, non è l'ultimo, ho sbagliato, è uno degli ultimi, diciamo così. Si chiama Bestival Live 2011, oppure 2011 all'americana, come preferite, ed è stato registrato appunto all'isola di Wight il 10 settembre del 2011. È un album nel quale, un doppio CD, del quale tutti i profitti sono stati devoluti all'Isle of Wight Youth Trust, cioè il trust che si occupa dei giovani dell'isola di Wight, che secondo me pagano un po' di scotto, diciamo così, perché sono tanti là isolati, almeno fisicamente, se non per il resto, adesso con internet non si è più isolati. Comunque, il brano che ho scelto per voi è uno dei super super super super classici della band, si chiama A Forest, loro sono i Cure, era il 10 settembre del 2011. Thank you. Dei tanti capolavori che Robert Smith ha scritto nel corso della propria carriera alla guida dei Cure, si chiama A Forest. Questa era la versione che diedero i Cure appunto il 10 settembre del 2011 al Festival dell'Isola di Wight. L'album doppio si chiama Festival Live 2011 ed era l'ultima cosa per quel che riguarda il Record Today di oggi. Weather Report dal 1977, Q-Tips dal 1980, Bauhaus dal 98, Bruce Springsteen dal 2004 con l'omaggio a Warren Zevon e i Cure dal 2011. E sono contento perché mi rimane il tempo di farvi ascoltare un po' della novità che vi ho proposto quest'oggi. Loro si chiamano Band of Heathens, hanno fatto un sacco di album live, vengono da Austin, Texas. Questo è l'ultimo in ordine di tempo, è uscito a giugno anche se è stato registrato nel 2009. È stato registrato a Rock Palace, per la precisione all'Harmony di Bonn, l'8 novembre del 2009. Vi ringrazio per l'ascolto, vi ricordo che vi siete ascoltati Città Fujiko Live Club, un paio di ore di musica dal vivo quasi ogni mercoledì, poi la prossima settimana vi spiegherò perché. E naturalmente dai 103.1 MHz di modulazione di frequenza stereofonica di Radio Città Fujiko, nonché sul web che potete scaricare tramite la app che potete scaricare dal sito della radio. Vi ringrazio di nuovo per l'ascolto, loro sono Band of Heathens, ciao a tutti da Nevio. Pumping that gas. No time to think of the girls and cops. tons of steel for me.